Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Trasformare gli scarti della cultura del riso in materiali da costruzione performanti e a bassissimo impatto ambientale. E questo è il paradigma sviluppato da Rice House, che è una startup innovativa che dal 2016 sviluppa intonaci, malte, mattoni, vernici, pannelli di vario tipo a partire da uno degli scarti agroindustriali più abbondanti e che oggi fatica a trovare una destinazione. Rice House ha ricevuto molti riconoscimenti, gli ultimi dei quali, diciamo in ordine di tempo, sono stati la vittoria del premio speciale Repower e l'accesso al programma di accelerazione di Impact Hub. E noi incontriamo l'ideatrice nonché fondatrice di Rice House, Tiziana Monterisi. Buonasera. Buonasera. Maurizio. Allora, Tiziana Monterisi è architetto, è impegnata, noi siamo conosciuti qualche anno fa, impegnata da molti anni nel mondo delle costruzioni in paglia, di cui però ha sviluppato, diciamo, un filone specifico legato al appunto allo scarto del riso. Perché lo scarto del riso? Beh, prima di tutto, Tiziana, correggimi, ma è molto abbondante, insomma, è una delle colture più diffuse nel mondo. Sì, il riso è proprio coltivato in tutti i 5 continenti, in più di 120 paesi al mondo e soprattutto l'Italia è il primo produttore di riso in Europa e io vivo nelle risaie. Quindi... Dalle parti del Monferrato, è possibile? Più verso Biella, quindi okay, tra Vercelli, sì, comunque, insomma. E la Lomellina, dove si produce realmente il riso d'Europa. Qualche numero per dare un'idea un po' più precisa? Ma considera che più o meno ogni ettaro di risaia fornisce 7 tonnellate di cibo, quindi di riso, e 10 tonnellate di scarti. Per intenderci, restano in campo circa 57 milioni di balle di paglia, che attualmente non vengono utilizzate, ma principalmente, ahimè, bruciate in campo, in quota parte interrate, ma sono molto difficili da utilizzare e non vengono utilizzate come il resto della paglia di altri cereali per gli animali. Per gli animali. 56 milioni solo in Italia, è corretto? Solo in Italia, ecco, corretto. Perché si fa fatica ad utilizzare i residui della coltivazione del riso? Perché il riso cresce in acqua, ma non è una pianta acquatica, e nella sua composizione chimica, lo stelo, ha un'altissima percentuale di silice, che è quella che gli permette alla pianta del riso di non marcire, che è una delle caratteristiche fondamentali se lo voglio utilizzare per fare delle costruzioni che chiaramente devono durare nel tempo. Certo, insomma, la presenza abbondante, che percentuale di silicio? 10-15%, no? 17%, ecco. di silice, cosa che non ha per esempio la paglia di avena, di ecco, farro, ecco. Di... E questo fa sì che sia, diciamo, poco nulla nutriente, brucia ma brucia male, produce poco calore e poi non marcisce. Tutto questo però è interessante se pensiamo di utilizzarlo in edilizia. Che prodotti avete sviluppato voi a partire dagli scarti, la paglia e poi la lolla, no? Che è quella pellicina che avvolge il chicco? Esatto, gli scarti sono diversi, ma quelli che utilizziamo in maggiore quantità nei nostri prodotti sono proprio la paglia che resta in campo e la lolla che invece esce dalla lavorazione del riso per farlo diventare riso integrale, riso bianco che va poi nelle nostre tavole. I prodotti che siamo riusciti in questi 3 anni a mettere sul mercato sono diversi, vanno a comporre l'intero edificio, quindi come già dicevi prima, vanno dalla pittura all'intonaco, le finiture, i pannelli, gli isolanti, cioè tutto quei mattoni anche, quegli elementi che servono per comporre l'intero muro, l'intera stratigrafia. Ecco, non parliamo solo di paglia o solo di lolla, ma di delle miscele, no? Delle miscele che hanno sempre una componente che chiaramente è un legante, che è quello che proprio ci differenzia, perché il legante che utilizziamo è un legante naturale 100% formaldeide free, che a seconda se sono appunto intonaci principalmente è la calce, l'NHL, ma se sono i pannelli o il mattone il legante è un amido proteine di soia e la magnesite, quindi leganti naturali che fanno sì che il prodotto resti 100% naturale e che a fine vita non sarà un rifiuto speciale, ma certo, potrà essere un fertilizzante per la risaia stessa. Ecco, molto, molto interessante. Questo chiude il cerchio dell'economia appunto circolare. Ecco, dicevamo, ci sono un po' tutti i componenti, le malte, gli intonaci, i mattoni, i pannelli vari e così via. State lavorando anche a dei progetti speciali, no? Ce n'è uno molto affascinante che combina i vostri prodotti con la stampa 3D. Sì, dall'anno scorso abbiamo intrapreso questa collaborazione con WASP, che appunto è un'azienda che produce stampanti 3D. Mega stampanti 3D, alte qualche metro con cui si possono stampare delle case, no? Con loro l'anno scorso abbiamo proprio stampato Gaia, che è il primo prototipo di casa stampata in 3D, interamente con una nostra miscela che è fatta di argilla, paglia trinciata e lolla. La differenza è proprio quella che con un'unica stampa io stampo un muro che non è soltanto estetico, ma è anche strutturale, energeticamente passivo per l'inverno e per l'estate, e soprattutto ho utilizzato una materia prima che è totalmente derivata da uno scarto. Quest'anno la sperimentazione continua e su progetto dell'architetto Mario Cucinella stiamo stampando Tecla, che non solo ha i muri stampati 3D, ma l'intero edificio, compreso la copertura. Ecco, a questo punto il vostro progetto imprenditoriale a che punto è, di che cosa ha bisogno? Perché voi avete sviluppato molti prodotti, ma siete ancora una realtà molto piccola. Sì, siamo una realtà molto piccola, siamo ancora una startup innovativa, abbiamo bisogno non solo di ricerca e sviluppo, ma anche a questo punto di investitori che credono in noi e con noi come partner industriali o finanziari ci aiutano a scalare in maniera un po' più rapida che se continuassimo da soli. Grazie, grazie Tiziana Monterisi, e come diciamo qui a Smart City, avanti così. Grazie Maurizio, grazie a tutti. Ciao, buona serata. E allora, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Appuntamento come sempre a domani. Buona serata anche da parte mia.